Consiglio comunale. Si comincia male, molto male. La camicia mia si sporca proprio al centro. Non si nasconde nemmeno con la giacca e un lembo. Nell'aria c'è agitazione. I segretari. I segretari coi fogli spiegazzati imbazzano giù e su. L'opposizione rumoreggia. E a me, nel bel mezzo di un saluto a un compagno di partito, mi scappa una scorreggia. Si fa silenzio. Silenzio giusto giusto per sentire tutta sana l'eco della mia bombarda. Il compagno di partito si rimangia il suo saluto. Fuori piove. Fuori. Ma dai piedi miei che stanno dentro si allarga una pozza d'acqua sporca. La signora delle pulizie se ne accorge e dal banco dei testimoni accusa: è stato lui, è stato il sindaco! Io dietro la sbarra nascondo un piede sopra l'altro. Mi calpesto, mi detesto. Signor giudice Clemenza, riesco a dire a bassa voce. E quello mi assolve con estrema riluttanza. L'opposizione torna a rumoreggiare, i segretari a imbazzare. E io mi accorgo che ho perso il foglio col discorso. L'ordine del giorno, gli appunti e tutto quello che mi può aiutare a ricordarmi che cosa devo dire. Ho un discorso da fare, questo lo so. Devo parlare, questo pure lo so. Ma mi chiedo di che e soprattutto perché. Tutti aspettano e mi guardano. Passi il tempo nel silenzio. Tic-tac, tic-tac fa l'orologio di un segretario. Tic-tac, tic-tac, che devo dire, che devo dire? L'opposizione gongola soddisfatta, si prospetta una sconfitta. Tic tac, tic tac, tic tac. Mi si fa buio intorno. L'ansia sale, il sudore cola giù sull'occhio e dalle scarpe torna ad allargarsi il cerchio. Ma io, invece di stramazzare, guarda un po', inizio a parlare. Parlo, parlo, parlo con convinzione, gesticolo da gran signore e conquisto l'uditorio. Tutti s'alzano all'unisono e cominciano a battere le mani. Bravo, bis, dice qualcuno. A quel punto la folla lì riunita si apre come il Mar Rosso. E dal centro della spaccatura vedo leggera avanzare Gelsomino. I vestiti miei preferiti addosso, mi guarda fisso, si avvicina, arriva, le mie scarpe sono asciutte, la camicia si è pulita, fa la bocca a cuoricino, mo mi bacia, mo mi bacia. È stato in quel momento che mi sono svegliato. Sano, sai, ma tutto vero. Hanno vasto mostrato sempre felice. Ma non è la mano poi, il tuo sorriso. Era tutto così bello, incancellabile oramai. Come posso fare? Non mi importa niente, dacia con questa. scordata mai, come ora. Ricordo ancora il tuo sorriso, incancellato oramai. Agera. Come posso fare? Domina, chiudi la finestra. Domina. Attenzione, vuoi chiudere sta finestra? Domina, se n'è andata, Gerà. Se n'è andata. Sei qua solo come un cane. Manca le sigarette. Che musica di merda, che poi se ci stava Gelsomina, mica ti faceva fumare a quest'ora di mattina. Mi viene il vomito, Gerardo. Si nota un vero e proprio calo di ispirazione, caro sindaco. Qua bisogna fare ordine fuori e ordine dentro. Quello di fuori precede e quello di dentro segue, come si suol dire. E via. Se ancora una volta mi riterrete degni di me in questo paese, voi mi date tutti i modi di questo paese antico e bello, patrimonio insieme per l'Italia tutta, per l'Italia intera, meglio che noi, tutti noi insieme a noi. Che giornata di merda. Da capo vestito, dormito. Bravo Gerardo, bravo. Ma che mi candida a fare? Forse bisogno di un sindaco sciatto? Un sindaco depresso? Chi lo vuole un sindaco depresso? Ma io mi riprendo, eh? Che credete? Sindaco, io lo so fare. Ho dimostrato l'altra volta, l'avete visto tutti, l'avete visto. Ho portato il paese sui giornali nazionali. Poi la televisione è venuta. E non per parlare di criminalità organizzata per una volta. E poi cos'è? Cos'è? I sindaci devono essere per forza tutti felici, come nella pubblicità. Oh, che noi viviamo nella realtà vera. Ce lo dobbiamo mettere in testa, ce lo dobbiamo mettere. E ve lo dovete mettere in testa soprattutto voi, cari concittadini. Ultimamente mi trovo un po' rincitrulliti, per non dire imbecilliti, incattiviti, ottusi. Gerà, se fai così in campagna elettorale ti buttano i pomodori in faccia, ti buttano. C'hanno pure ragione, tutto sommato, in fondo, alla fin fine. Perché dovrebbero ascoltare uno che li insulta? E soprattutto perché dovrebbero votarlo poi? Concittadini miei, potessi dire tutto, egregi compaesani, sarebbe per il vostro bene e soprattutto per il mio, un bello sfogo personale. Ah, che meraviglia! Un'invettiva sull'iniquità dei tempi moderni, sulla arretratezza del pensiero contemporaneo, sulla sciatteria dei costumi odierni. Che soddisfazione. Già mi immagino, appassionato, infervorato, dal podio, come a Savonarola, scagliato contro i propri concittadini, simbolo della decadenza dell'epoca moderna, e soprattutto contro di lei, contro Gelsomina. Colpevole di abbandono nei confronti di un uomo che non merita di stare così male. Gelsomina, personificazione e simbolo della disillusione sentimentale, dell'indifferenza, dell'incostanza emotiva, della pigrizia e dell'impegno d'amore. Gelsomina, personificazione e simbolo dell'egoismo moderno, piaga contemporanea, malattia che non si debella, Gelsomina, personificazione e simbolo di quanto sto male. Ma che è successo? Che è successo? Io mi ricordo come mi volevi, che eri mia. Mi ricordo come se fosse oggi, di quando ero il sindaco del paese, di quando erano sbarcati gli immigrati, gli stranieri, io lavoravo per l'integrazione, come si suol dire. Beh, tu eri fiera di me. Ti piaceva quello che facevo, ti piaceva assai. Gerà, come se ne escono dalla testa tua tutte queste belle idee. Bravo che sei, Gerà. E mi baciavi e ti strusciavi. Come eri bella, Gesù mio. Madonna, come eri bella. E io non te l'ho detto mai, ma tu sei la più bella femmina che ho incontrato. La più bella di tutte. Io non te l'ho detto mai, ma tu sei più bella pure di tutte le donne alte, bionde, azzurrute che vedevo in terra di Germania quando stavo là a lavorare. Ed ero io lo straniero, l'immigrato. E col cavolo che si parlava di integrazione. Ma questo è un altro discorso. Sì, Gesù mio, sì, tu eri più bella di tutte le tedesche che ho mai visto. E ne ho viste tante, Ne ho viste tante. Gesù mio, io non te l'ho detto mai. Ma tutto quello che faccio, pure quando lavoro, lo faccio perché penso a te, a quanto sei bella, a quanto è bello che esisti. Tutta la forza che mi vedevi addosso, eri tu che me la davi. Tutte le idee belle che mi trovavo nella testa, erano perché tu stavi con me. Io non te l'ho detto mai, ma che te lo dico a fare, mo? Mo che non serve più a niente, mo che te ne sei andata via, mo che mi hai lasciato da solo. E lo sai qual è la cosa più brutta, Gesù mio? Cosa più brutta è che forse a te, in fondo, tutto sommato, alla fin fine, non te ne importava proprio niente dell'integrazione. Non te ne importava il fatto che io avevo deciso di accogliere quei poveri disgraziati dentro al paese nostro, dentro alle case che stavano spopolate su al paese vecchio, no? Non era questo che ti piaceva. Non te ne fregava niente dell'apertura mentale di tuo marito, che accoglie i profughi perseguitati dalla fame, dalla guerra, no? No, tu questo manco lo capivi. A te ti piaceva solo di essere la moglie del sindaco del paese. E non fa niente che un paese povero, con la siccità, le alluvioni, la mala vita. No, a te ti piaceva che stavano tutti là a complimentare la mia politica. Ma che bella idea! Ma che pensata d'ingegno, che uomo di sensibilità. Pure gli avversari politici non facevano che complimentare, pure quelli che ci avevano paura degli stranieri, tutti, tranne mia madre. Ma pure quello è un altro discorso. E poi la sera, a casa nostra, ti piaceva quando telefonavano da Roma, gli onorevoli da Roma, destra, sinistra, tutti a complimentare. Onore al sindaco che ha aperto le porte del suo paese ai rifugiati politici. Pure il capo dello Stato venne, che mi strinse la mano, ti ricordi? Tu eri tutta elegante, bella. Bravo, bravo, mi disse. Lei è un esempio da imitare. E tu mi guardavi. E di sicuro pensavi, questo esempio da imitare è mio marito. E chissà, per un poco magari ci hai pure creduto, che avevi sposato un uomo vincente, come si suol dire. E in quel periodo io mi ci sentivo pure vincente. Avevo tutto. Avevo te. Avevo l'amore tuo. Ed ero riuscito a realizzare il mio sogno. Il paese vecchio, che se ne cadeva a pezzi, che piano piano se ne moriva, per merito mio era tornato vivo. Per merito mio ci vivevano di nuovo le famiglie, coi bambini, coi vecchi. Beh, non erano italiani, ma era brava gente, volenterosa, scappata dalla guerra, tutti gli volevamo bene. Pure tu, pure a te ti piaceva di farti le passeggiate. Tu che non ci andavi mai prima. Che odori buoni, Gerà. Che movimento su al paese vecchio. Mi sembra quando ero piccolina. E io mi impegnavo. Chiedevo finanziamenti, politicavo. Per fare in modo che quei poveri disgraziati potessero vivere dignitosamente dentro al paese nostro e vivendoci farlo rivivere. E all'inizio tutto è sembrato possibile. E poi piano piano tutto è cominciato a finire. Eppure tu, con una tempistica perfetta, pure tu mi hai lasciato. Mi hai lasciato quando hai capito che non saresti diventata una first lady. Mi hai lasciato quando tutto mi lasciava. Quando gli stranieri se ne andavano senza dire niente, quando i politici se ne andavano perché non ci avevano più niente da dire, quando i riflettori delle televisioni si sono spenti, e in paese si cominciava a pensare che era stato sbagliato accoglierla quella mala gente, era stato sbagliato dargli le case, che era stato sbagliato tutto. Insomma, quando tutti quelli che prima complimentavano hanno cominciato ad aver da ridire. Ma che sindaco sbagliato, ma chi ce l'ha fatto fare? Questi stranieri ci hanno invaso per 2 anni e mo guarda qua, se ne vanno. Eppure tu te ne andavi. Io non ti sembravo più molto bravo. No? Le mie idee, tutto sommato, erano quelle che erano. E io non ero niente di speciale. Anche se ancora combattevo. Mi impegnavo con quelli che erano rimasti. Li difendevo, gli stranieri. Se ne vanno perché cercano una condizione migliore, magari in una città più grande. Il nostro è un paese povero, offre poco, ha dato quello che poteva. È servito per riprendere fiato e ripartire. Vogliono solo migliorare la propria condizione. Anche io voglio migliorare la mia condizione, c'era la tua condizione. E mica c'eri venuto in una nave scassata a vivere con me. Mica scappavi perseguitata da qualcuno, o dalla fame, dalla guerra. Potevi pure pensare di migliorarla insieme a me, la tua condizione. E invece te ne sei andata via e mi hai lasciato da solo. Tutti insieme, tutti nello stesso momento avete deciso di andarvene. E io? Quando si parla a stare da soli, Gerard. Si parla. E chi lo doveva dire? Questo paese sta degenerando. Squallore, che miseria culturale! Qua ci vorrebbe un'amministrazione coi cosiddetti, come si suol dire, un'amministrazione che abbia il coraggio di agire, di risolvere i problemi della gente, di far risorgere l'antico spirito del paese, lo spirito grazie a cui questa terra è diventata quella che è. Una landa desolata. Fino a prima della landa desolata andava bene, però. L'antico spirito del paese. Bella trovata. Efficace. Bella, ma me la segno. L'antico spirito del paese. Basta che non mi faccia trascinare verso le lande desolate. Ma sì che si può. Si può non farsi trascinare verso il baratro, si può. Oh, io mi sento in grado. Dopotutto, in fondo, alla fin fine, io ci credo ancora. Altrimenti non mi sarei candidato un'altra volta, no? Altrimenti non sarei qua a preparare discorsi elettorali. E allora vai, Gerard, vai, ricomincia da capo. Ricominciamo da capo, onorevoli elettori cittadini. E allora, ricominciamo da capo. Non perdiamo ciò che è stato e ripartiamo da lì. Abbiamo ancora tutte le nostre ricchezze, le bellezze che mezza Italia ci invidia. Facciamo risorgere l'antico spirito del paese. Rendiamoci degni dei nostri antenati, di quelle donne, di quegli uomini che hanno sforzato la terra e la pietra per costruire le strade, i ponti, le vie che ancora adesso noi percorriamo, quelle donne e quegli uomini che hanno resistito alle alluvioni, che hanno scavato il fango per tenere in vita la loro casa. Ed è così che hanno fatto pure gli stranieri quando sono stati con noi. Ed è per questo che io voglio, elettori e cittadini, che il nostro paese ritorni a essere un punto di riferimento per le genti che viaggiano, che emigrano, che sono costrette ad abbandonare la propria terra per la povertà, per la fame, come è successo a noi anni fa, non dimentichiamocelo. Io voglio, elettori e cittadini, che il paese vecchio, che adesso se ne cade a pezzi, non diventi un rudere frequentato solo da fantasmi, ma che sia di nuovo popolato da razze diverse, da lingue straniere, colori strani. E questo si può fare solo aprendo le porte e regalando cittadinanza. Io voglio questo, gentili cittadini elettori. Non lo so perché lo voglio. Forse perché è l'unica cosa che mi è riuscita bene. Forse perché quello che è stato mi è piaciuto. Forse perché quando è successo la prima volta la mia donna mi amava, non lo so. Fatto sta che se voi mi eleggerete, io, onorevoli elettori e cittadinanza tutta, io cercherò di fare questo. Esco e mi compro le sigarette. Del terzo giorno, strada deserta, in giro solo gatti. Il sindaco passeggia, ha deciso di fare una passeggiata per il paese antico. Perché il paese è diviso in due. Sulla collina le case antiche che stanno su da secoli, in basso, in riva al mare, le case nuove, quelle fatte coi soldi degli emigranti. In alto le case sono più belle, ma non ci abita quasi più nessuno. Tutti quelli che non si sono spostati in città, quelli che non si sono trasferiti all'estero, quelli che non hanno trovato lavoro al nord, insomma tutti quelli che sono rimasti vivono alla cosiddetta marina, nelle ville e nei palazzi vicino al mare. E così... così le case dei padri, dei padri, dei padri, dei padri, dei padri, ammuffiscono sole e pioggia. Al sindaco piace il paese antico, gli è sempre piaciuto, ma più di tutto gli piaceva quando c'erano gli stranieri. Piacevano perché erano in tanti e rumorosi, piaceva che... perché sembrava ci fossero pure più paesani, perché il paese vecchio era tornato in vita, c'era movimento. Al sindaco piace il movimento, mi piace la solitudine del sindaco, ex sindaco, forse il futuro sindaco. Il sindaco, chiamiamolo così per comodità, passeggia con calma e miagola ai gatti che incontra. Quelli gli rispondono salutando, si conoscono bene. Il sindaco spesso si chiede che fine farà quel paese tanto bello, tanto sull'orlo della rovina totale. Vorrebbe una bella ristrutturata, una bella metaforica pulita e aria, aria, novità, novità, novità. Egregi gatti, unici abitanti di questo paese antico, buongiorno, come va? Soffrite pure voi di un poco di solitudine? Vedrete, vedrete. Che se il sottoscritto sarà eletto, ci riproviamo a ripopolare questo paese, eh? Che ne dite? Vi piace la novità? Egregi gatti, se potesse votare voi, sarei certo di vincere e stravincere alla faccia di mia madre. O mica mi ha votato l'altra volta, pure se poi ho vinto lo stesso. No, ha votato per gli altri. Tu la politica non la sapi fare. Quella mala gente del mare t'ha trasuto fuori da te, non ci capi niente di niente più. Mala gente, cattiva previdenza, cattiva. Così diceva quando la mala gente, gli stranieri sono arrivati e io li ho fatti entrare. Ma lo ricordate, egregi gatti? Qualcuno è pure rimasto. Pochi. Pochi, pochi. Mia madre... pure lei qualche tempo fa se n'è voluta scendere alla marina. Eh sì, e così la casa dove sono nato io, i miei fratelli, le mie sorelle, l'ho lasciata marcire qua al paese vecchio, insieme a voi gatti spalacchiati, con tutto il rispetto. Preferisce stare sulla circonvallazione, più vicino a me. Io c'ho la villa, una casetta col giardino, pronta per essere allungata per i figli. Ogni piano un figlio, ogni figlio un piano. Ma io figli non ne ho avuti ed è rimasto un piano solo per me e mia moglie. Poi pure Gelsomini se n'è andata. Pure la femmina ti sei fatto scappare. È tutto per colpa della politica, sei veramente fesso. Mia madre. E forse, in fondo, tutto sommato, sostanzialmente, forse ha ragione lì. perché se io non mi fossi buttata a capofitto in questa avventura degli stranieri, forse Gelsomina non arrivava ad amarmi così tanto, perché tanto mi amava quando c'erano gli stranieri. E poi quando se ne sono andati non si sarebbe accorta che non mi amava più così tanto. Voglio dire che se non fosse successo niente, se fosse rimasto tutto com'era, forse Gelsomina si sarebbe abituata alla medietà della vita. Non si lascia un uomo mediocre, si lascia un uomo che non è più un grand'uomo. No, però io non mi pento di aver fatto quello che ho fatto. No, anzi, lo rifarei. Lo rifarò, cercherò di farlo, l'ho già detto. Sì, sì, mi ricordo come se fosse oggi. Dottore, un'emergenza. Non sono dottore, sono ragioniere. Basta di chiamarmi dottore solo perché sono il sindaco. Ma qua per ogni minima cosa chiamano il sindaco, pure a notte fonda. E infatti quella notte mi chiamarono per dirmi di scendere, che una nave si era ingagliata al porto. E da quella notte che io dormo con un occhio solo, come si suol dire. Anche se adesso è difficile che qualcuno mi possa svegliare all'improvviso. Pure mia moglie, se torno, mi sa che lo fa di giorno. È uno che di notte dorme lì, tranquilla, senza sogni. Mica come a me. A me i sogni mi tartassero il cervello, mi tartassero. Il fatto è che da quando lei se n'è andata non so più a chi raccontarli i miei sogni. Li raccontavo sempre a Gelsomini i miei sogni. Mia madre è sorda e io non ci riesco a gridargli nelle orecchie. Non viene bene. Un conto sono i discorsi elettorali, ma coi sogni. No, non ti puoi mettere a strillare o anche solo a parlare ad alta voce. I sogni sono importanti. Nascondono significati decisivi. Bisogna ricordarseli, scriverli e poi raccontarli. Certo, devi avere qualcuno disposto ad ascoltarli, altrimenti... A proposito, mi è venuta un'idea. Inserirò nel mio discorso di chiusura di campagna elettorale uno dei miei sogni. Sì? Uno di quelli rappresentativi, naturalmente. Uno di quelli che possono aggiungere qualcosa alle mie parole, chiaramente. Anzi, sapete che vi dico? Che io mi metto a lavoro proprio qua, con voi. Sì, nel senso che preparerò il mio discorso davanti a voi. Gli strumenti a lavoro ci sono, ecco, sì. E quindi avrete voi pochi qui convenuti il privilegio di ascoltare un'anteprima, un'anticipazione di quello che sarà il discorso elettorale del sottoscritto. Eh? Che ne dite? Non fate così, Moscia. Vi siete offesi perché prima vi ho chiamato gatti spelacchiati. E voi quello, sì. Spelacchiati. Come quei quattro vecchi che sono rimasti qua al paese antico. Poveri zoppi. Per le vie vecchie del paese. A camminare con gli occhi bassi. Per non vedere che non si incontra mai nessuno, che non c'è mai nessuno da salutare, proprio uguali. E non vi offendete, cari gatti, onorevoli cittadini, che io pure mi sento così. Mi pare strano che non vi ci sentite pure voi. Comunque, se non volete, non vi chiamo più gatti spelacchiati, va bene? Contenti? Che diceva? Ah, a proposito di quella notte, dottore, un'emergenza, non sono dottore, sono ragioniere. Quella notte, quando mi svegliarono per avvertirmi dello sbarco degli stranieri, ecco, io stavo sognando. E mai sogno fu più illuminante. Però, un momento, voglio andare con ordine, perché lì per lì, quando mi svegliai, io non mi ricordavo proprio niente. Né del sogno che stavo facendo, né del fatto che stavo sognando. Il telefono aveva strillato più volte. Prima un conoscente, poi un altro, poi mia madre, che sa sempre tutto prima di me, non lo so come fa, e tutti quanti mi dicevano di scendere in fretta giù alla marina, che una nave carica di mala gente si era ingagliata al porto. Porto, mo. Quel pezzetto di spiaggia che da 50 anni a questa parte ci deve diventare porto. Anzi, sapete che vi dico? Ma vi faccio una bella promessa elettorale. Sì? Allora, io mi impegno, qualora avvenisse la mia elezione a sindaco di questo paese, mi impegno a portare a inizio, e a termine soprattutto, i lavori per la costruzione del porto, opera da anni agognata e necessaria allo sviluppo di questo paese, sull'orlo dello spopolamento totale e conseguentemente della morte. A parte la morte andava bene. Sì, ma me lo segno. Gli appunti sono fondamentali. Allora, il porto sì, la morte no. Ecco. Insomma, quella notte mi sveglio, mi vesto in fretta e scendo al porto. E appena arrivo mi trovo davanti a questa bella scenetta. Fefe, amico mio, sindaco di San... No, il paese non ve lo dico. No, no, anche se qua lo sanno tutti. Sì, ma io certo non sono una spia. Allora, dicevo, Fefe, lo trovo che se ne sta immobile, allibito, basito, basito, davanti a quell'enormità di nave stracarica di mala gente. Fefe, svegliati, dico io, qua bisogna che facciamo qualcosa. Lui si volta e mi guarda con gli occhi annebbiati. Allora, io Fefe lo conosco bene, siamo amici, abbiamo lavorato insieme in Germania da giovani. Lui è un grande lavoratore, è sempre stato un grandissimo lavoratore, pure come sindaco, è un sindaco che è un grande lavoratore. Lui si spezza la schiena, lavora, lavora, lavora. Ma la sera Fefe smette di lavorare e si deve riposare, si deve rilassare. E a Fefe per riposarsi e rilassarsi gli piace di bere. E più lavora di giorno e più beve di sera. Insomma, per farla breve, il giorno prima di quella notte Fefe aveva lavorato tantissimo. E di conseguenza, quando l'ho visto io, stava parecchio frastornato, per dirla con le buone. No, no, però un momento, No, no, un momento che qua... Bisogna che io sia preciso, perché sennò le male lingue... Allora, Fefe era stato il primo ad arrivare giù al porto, perché in realtà la nave non si era incagliata proprio sul pezzetto di spiaggia che diventerà porto qualora il sottoscritto verrà eletto, ma si era incagliata alla fine della spiaggia di competenza del paese sindacato da Fefe. È per questo che lui stava già là. Era stato giustamente chiamato per primo. Poi qualche furbo o maligno, vedendolo in quelle condizioni, ha pensato bene di venire a svegliare pure a me, che sempre secondo il furbo o maligno garantivo maggiore lucidità di quella di Fefe. Anche se a dire il vero pure io quella notte mi ero bevuto un paio di bicchieri o più di qualcosina di forte, per cui se Fefe aveva lo sguardo annebbiato io ce l'avevo come minimo annacquato. Scusate, ma questa è la verità. E io oggi, qua, egregi gatti, dico solo la verità. E allora, immaginatevi la scena. Io e Fefe, con le braccia appese, la testa all'insù, gli occhi privi di qualsiasi traccia di intelletto umano, ma neanche bovino o ovino caprino, davanti all'Ararat, così si chiamava, la nave scalcagnata, la carretta del mare, come si suol dire. Traboccante di corpi, di braccia, di gambe, di facce, di occhi, occhi sbarrati, occhi sofferenti, occhi pieni di aspettative. E noi, così. È stato in quel momento che mi è rivenuto in mente il sogno che stavo facendo. A casa mia stavo, nel giardino pranzavo, a casa mia stavo e mangiavo. Mangiavo i ziti, ziti lunghi, verminosi, troppo cotti. Li fai sempre troppo cotti, accidenti a te. Accidenti a chi? Che non c'è nessuno. I ziti continuavo a mangiare. A casa mia stavo e la guardavo. Fiori, uccellini, erba secca, tutto c'era. Come per davvero? Come per davvero c'è tutto, lì pure c'era tutto, lì nel sogno. Il sugo m'arrossava la camicia, bianca, immacolata, proprio qui, al centro del petto, tirando su uno zito troppo cotto. Il sugo non si è trattenuto e ha schizzato. Manca una donna che pulisca, manca una donna per pulire. Torno dentro, fuori è freddo, i ziti nel piatto sono finiti. Manca una donna che porti i piatti dentro. Manca una donna per portare i piatti dentro, dentro a casa mia. Ora entro, ma non mi alzo. Come quando nei sogni sei così stanco che non muovi nemmeno un mignolo, e così era, pure in questo sogno. Ma mi alzo e ricadeva il braccio. O mi muovo e il piede si piegava. Mo do un urlo e la bocca si serrava. Solo gli occhi, aperti, non si chiudevano. E allora le ho viste, tutte sedute al muretto, che fumavano sigarette strette e marroni, e ridevano facendo dindolo col corpo squasso di risa. Chi siete? E perché ridete? E dove andate? Perché vi alzate? Questa è casa mia, c'è il giardino, l'uccellino, l'erba secca e l'albero morto. Non vogliamo darti torto, disse uno, ma abbiamo chiavi per aprire tutti i vani. Ridevano contente mentre aprivano le porte. Manco una che pulisse la camicia, manco una che rientrasse i piatti in casa. Il sugo gocciolava sulle scarpe mentre quelle a piedi nudi correvano in giardino e aprivano le porte, pure quelle che non c'erano. Ne afferrò una per il braccio. Ha il viso bianco, il pelo nero, l'occhio sveglio, la bocca gli ride come un bambinello. Andate via, questa è casa mia. Quella tace, il riso le si spegne insieme alla sua luce. Sei sicuro di volerlo? Io non vi trattengo. Allora con perizia mi rende le chiavi tutte in mucchio. Fanne buon uso, mi esorta lieve, ripigliando la sua luce. Si guarda intorno e le sue amiche si raggruppano in un cerchio. Un momento e se ne vanno, senza salutare, lasciando me solo a rimirare il giardino, l'uccellino, l'erba secca e l'albero morto, con in mano quelle chiavi che ci fanno a tutti schiavi. E il telefono si era messo a strillare. Il sogno m'era stato interrotto o era finito? Le chiavi erano rimaste in mano a me. Ma che voleva dire? E poi perché tutte quelle donne sconosciute? Oh, ce ne fosse stata una che mi ricorda qualcuno che conosco. Mia moglie, mia madre, un'amica. No, niente. Mai viste prima, nemmeno di sfuggita. Tutte belle, eh? Bianche, lisce, oppure nere, morbide, tutte diverse, qualcuna grossa, qualcuna magra, ma tutte sconosciute. Chi erano? E poi che rappresentavano? A me mi è sempre piaciuto interpretare i sogni, ma coi miei certe volte mi viene difficile. Mi veniva bene con quelli di mia moglie. Quei pochi che faceva, glieli interpretava in 4 e 4-8. Questo vuol dire così, quest'altro colà. Quello rappresenta questo rappresenta quello. La lasciava a bocca aperta. Certe volte ci provava pure lei a interpretare i sogni, ma non era per niente brava. Aveva altre qualità, Gelsomina. Altre qualità. Insomma, quella notte, mentre me ne sto con Fefè, con le braccia larghe e il naso all'insù, di fronte a quell'enormità di nave, e mentre pensavamo tutte e due nello stesso momento, sono sicuro che quello era un guaio che nessun sindaco si augura di dover risolvere, specialmente la sera che ha bevuto troppo, beh, io in quel momento sento la sensazione che il sogno che stavo facendo era un vero e proprio sogno premonitore. Intanto la notizia si era sparsa, ed erano arrivati in parecchi ormai sulla spiaggia. Guardateli, che facce, che occhi, pensavo io. Mi ricordo soprattutto gli occhi. ma quanti sono? Sono più di 1000, 1200, 1300. Zitti, ho detto io, cerchiamo di darci da fare, forza. Portate un po' di coperte e chiamate l'ospedale. Aiutiamo questi poveracci a scendere. Nelle situazioni d'emergenza mi viene il polso di un sindaco d'eccezione. Ma li sonnara, croste bavose, robe cancerose. Come che quando il pio pio non chiocciola più, come che quando gli ovi nel culo ritornano della pollastra secca. E zitta pure voi, mamma! Nelle situazioni d'emergenza mi viene il polso di un figlio liberato, veloce, deciso. Io facevo, comandavo, organizzavo. Che ti ha preso, Gerami? Chiedeva Fefe. Che ti sei sbevuttato prima di dormire? Ormai si era ripreso e agli ordini non gli dispiaceva di obbedire, sollevato, di nuovo lucido, tutti insieme. Mia madre, dietro, in sordina, continuava a cantilenare, maledicendo me, suo figlio, figlio figliaccio, che fa entrare lo straniero, che lo accoglie senza guanti e coi sorrisi. Figlio, figlio figliaccio, figlio che non ha paura di guardarla dritta in faccia tutta questa mala gente. Figlio, figlio, figlio traditore. Forse feci tutto quello che feci solo per far arrabbiare mia madre. E se non vi sembra un motivo valido, egregi gatti, non conoscete mia madre. Gliele leggevo in faccia tutte le male parole che triturava tra i denti. E pensavo che non era giusto, no! La sua paura faceva male a tutti. Era l'unica cosa che non serviva e che non sarebbe servita mai. È stato in quel preciso momento che ho capito cosa voleva dire il sogno che stavo facendo. Ho capito cosa dovevo fare. Ho chiamato Fefe, gli ho parlato. Mi sono venuti gli occhi lucidi e subito mi ha dato una chiave. La mia, io te la do subito, mi ha detto, da uomo buono com'è. Era la chiave della sua casa al paese alto. Casa un po' diroccata, ma casa. Spopolata da quando se n'era andata a vivere all'altro paese, che i suoi erano morti. Spopolata come tantissime altre case del paese vecchio. Dal giorno dopo abbiamo consegnato, col consenso dei proprietari andati via, le case del paese vecchio alle famiglie straniere. Il sogno me l'aveva detto. Le chiavi rimaste a me dovevano essere usate bene. E questo mi sembrò usarle bene, nonostante mia madre. Il paese si ripopolò. Esterno, interno, giorno. Il sindaco se ne torna a casa. Per strada non incontrò nessuno. I suoi discorsi non interessarono nessuno. Notte di 2 anni dopo. Nessuno andò a chiamarlo. Nessuno svegliò il signor sindaco per avvertirlo. Dormiva il sonno dei giusti tra le braccia calde di donna Gelsomina, sua legittima moglie. Non sognava. O forse stavolta faceva uno di quei sogni innocui. Non vogliono dire niente, che non vanno ricordati. Buoni solo per dormire profondo e nient'altro. Gelsomina russava leggermente, come le capitava ogni tanto, non un vero e proprio russare, ma un respiro profondo che le inarcava il petto e le sfuggiva dalla bocca semiaperta, facendole tremolare la gola. Quella notte nessun telefono squillò per comunicargli che così come erano arrivati, ora se ne stavano andando. Era una notte bella e per cena Gerardo e Gelsomina avevano apparecchiato in giardino, per mangiare sotto le stelle, per bere il vino alla luce della sera, romantici, come si suol dire. Poi, senza nemmeno togliere tutta la tavola, se ne erano andati a letto e avevano pure fatto l'amore. Dal giorno dopo in poi, per giorni, mesi, anni, ci ha ripensato. E ancora ci ripensa quella notte. E la vede. Vede se stesso sprofondato nel sonno dei giusti. Gelsomina al suo fianco che russa leggera, la notte chiara, con poco vento, le stelle poche perché c'è tanta luna, i gatti del paese vecchio, pure loro addormentati, e il mare, non se lo scorda il mare, calmo, senza fretta, poca spuma e monotonia di risacca, nessuno si incaglia stanotte sul finto porto di questo paese che tutti stanno per dimenticare. E vedi. Vede la porta della casa che dà sulla piazza, che si apre. Non c'è cigolio, perché li hanno sistemate bene le case, questi stranieri venuti dal mare. I cardini sono liati, le porte sono state messe a posto e dunque senza rumore si apre la porta della casa che dà sulla piazza. La casa grande, col terrazzo, la casa dove si era sistemata la prima famiglia straniera. Sbuca il bambino più grande e fa capolino, guarda la notte incuriosito. Nessuno l'ha mai fatto uscire così tardi. Gelsomina sospira, si agita. È forse un buco dell'amore per me, si stacca dal suo cuore. Poi dietro viene la madre. La sua schiena di donna minuta è carica di un grande sacco pieno di pentole e masserizie, da cui spunta un rametto del rosmarino cresciuto sul terrazzo della loro casa italiana. Con una mano tiene a stento il figlio più grande, elettrizzato per l'uscita notturna, con l'altra si trascina dietro il piccolo, assonnato, che non ne vuole sapere di uscire a quest'ora di notte. Io mi giro su un fianco, tranquillo, soddisfatto del calore che mi giace accanto e quindi di tutto il resto del mondo e dell'umanità. Per ultimo viene il padre. All'inizio aveva trovato lavoro alla cava e andava tutto bene, ma poi la cava ha chiuso e lui è andato a lavorare in campagna. Allora qualcuno gli ha proposto di aprire un ristorante come nel suo paese. Qualcuno che aveva assaggiato i piatti della sua terra fatti da lui. Ci ha provato. E all'inizio è andata bene, ma poi piano piano i clienti hanno cominciato a scarseggiare, i politici e i giornalisti a venire di meno e lui è tornato a lavorare in campagna. Una notte di 2 anni prima lui era convinto che qui in Italia, dove era appena arrivato, avrebbe fatto l'autista delle celebrità e dei personaggi importanti. Gelsomina mi volta le spalle e un altro pezzo di cuore suo si allontana dal nostro letto. Dalla casa che dà sulla piazza escono in silenzio. La madre guarda indietro, di certo sta pensando si è dimenticato qualcosa. Il padre accosta la porta, infila le chiavi dall'esterno, le guarda e le lascia appese lì, di modo che qualcuno, una volta a giorno, una volta sveglio, possa vederle, prenderle e consegnarle a chi di dovere. Vanno via senza salutare, di nascosto, come ladri. Loro sanno di essere soltanto i primi. Sanno che gli altri, quasi tutti gli altri, presto li seguiranno. Loro sanno che una volta a giorno, una volta sveglio, il paese rabbrividirà all'idea di dover tornare ad essere quello che era, di dover tornare a contare i suoi fantasmi. Mi si apre un occhio, vedo la mia stanza nel fumo del sonno, sospiro, mi giro, sono ignaro, felice, speriamo di riuscire a riprendere sonno, penso, mentre mi addormento di nuovo. Gelsomina apre gli occhi e per un attimo non mi riconosce, mi guarda da un'infinita distanza.